Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Federico Dragogna, autore e chitarra dei Ministri, che è in collegamento telefonico con noi per parlarci di una serata di questo venerdì 12 novembre a Bologna al Teatro Celebrazioni. Ciao Federico, benvenuto su Radio Città Fujiko. Eccomi qua, ciao a tutti. Ciao ciao. Questo venerdì 12 novembre, appunto, come dicevamo poco fa, presso il Teatro Celebrazioni di Bologna ci sarà una serata Non chiamatemi artista. Tu sarai uno degli ospiti all'interno di questa serata, sarà un late afternoon show a partire dalle ore 18 e insieme a te sul palco ci saranno Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e Giorgio Presenti del collettivo Iside. Ti chiedo innanzitutto di spiegarci rispetto alla serata di che cosa si tratta. Ma allora, si tratta di un incontro. Noi saremo reduci, io, Riccardo e Giorgio, saremo reduci da una 2 giorni di sessioni, diciamo, di produzione agli studi Phonoprint di Bologna, insieme a una serie di, diciamo, giovani artisti che non hanno ancora affrontato mai quello che è effettivamente la produzione in musica, il ruolo del produttore e quant'altro. Quindi veniamo 2 giorni fitti su questa cosa e poi alla fine invece ci sarà questo incontro in teatro che sarà un, ma non so come chiamarlo, un po' una confessione, un po' una chiacchierata, un po' anche una situazione un po' di confronto. Cioè, quello che perlomeno mi auguro è che ci siano, insomma, tanti ragazzi che poi vogliono cercare di fare questo mestiere non mestiere e che chiedano cose direttamente, ecco. Rispetto a una volta, il grande vantaggio dell'oggi è davvero questo, che c'è molto più contatto direttamente con le persone da cui vorresti capire le cose, rispetto ai miei tempi dove uno guardava al massimo un video su MTV capendo dove metteva le mani il chitarrista, ecco, come massimo. Non chiamatemi artista, questo titolo è anche un po', diciamo, evocativo, e rispetto alle parole che dicevi tu, questo mestiere non mestiere, ti chiedo anche rispetto alla condizione che si vive in Italia e non solo, che vivono gli artisti, quali sono, diciamo, i consigli che tu potresti dare in prima persona rispetto alla figura di un artista, come ci si immerge all'interno di questo mondo? Ma la prima cosa che mi viene da dirti è che se uno sta a fare un bilancio effettivamente, diciamo, di entrate e uscite, come se uno fosse un commercialista rispetto a questo mestiere, ecco, se uno incomincia a fare questo calcolo non farà mai questo mestiere, nel senso che questo mestiere è un mestiere che nasce, cresce, si sviluppa in perdita rispetto alle ore che ci dedichi. Poi ovviamente può andarti benissimo, no, tra virgolette, le cose che succedono, però ecco, anche solo per come si sono trasformati i mezzi di comunicazione, o insomma, ecco, l'avvento del digitale e il fatto che oggi chiunque di noi può andare su Spotify e sentire gratis o poco più che gratis tutta la musica del mondo, questa è una cosa che ovviamente più che taglia le gambe rivoluziona completamente quello che è effettivamente la filiera, diciamo, il business nel mio caso del musicista, ma questo può valere anche per i fotografi, per esempio, no? E quindi, ecco, in questo senso non è una strada che si prende per convenienza. Forse non lo era neanche una volta, sicuramente non lo è adesso. Il che non vuol dire che sia una strada allora meno, come dire, meno affascinante o meno seducente. Continua a esserlo, perché dopo, se uno riesce più o meno vagamente a farlo, rimane comunque una delle cose più belle che si possono fare al mondo, ovviamente se ami farla. Tu credi che in Italia in questo momento il mestiere dell'artista, del musicista, del fotografo, comunque tutti gli ambiti che riguardano il mondo dell'arte, siano delle professioni riconosciute e tutelate? Allora, viene abbastanza naturale dire di no, ma allora il riconosciuto è un po' complesso, nel senso che il riconosciuto rispetto a fare l'artista, qualsiasi cosa voglia dire, vuol dire prima di tutto che la gente e il mondo ti sta riconoscendo un qualcosa, cioè ti sta riconoscendo il fatto che il mondo ti voglia per quello che fai, per quello che produci, per quello che disegni, per quello che fotografi. Non è che puoi avere un riconoscimento to cure in automatico dal mondo dicendo: ragazzi, io voglio fare questo, quindi datemi i soldi per fare questo. Quindi questo, secondo me, ecco, scordiamocelo, come dire, un reddito d'artista vita natural durante, al di là di quello che fai, non funziona veramente, cioè non ha un senso. Credo dall'altra parte che l'Italia si porti dietro ancora un sacco di stereotipi, di luoghi comuni, ancora davvero da anni 50, rispetto a, anche proprio di modi di dire, rispetto al, al scegliere questa strada, che sono davvero retrogradi, nel senso che il fare attività culturale vuol dire comunque prima di tutto fare economia in qualche modo, in più vuol dire coinvolgere tante figure professionali, quindi tante altre professioni che diciamo hanno magari meno di artistico ma che sono necessarie, e ancora oggi, insomma, la pandemia ce l'ha insegnato più che di ogni altra cosa, sembra davvero di dover ripetere addirittura ai nostri ministri, ai nostri assessori come funziona un concerto, come funziona un live club e così via, tant'è che insomma in Italia anche soltanto la parola live club non esiste, si tiene per convenienza la parola discoteche, che fa molto anni 90 e che permette, no, di squalificare, di delegittimare tutta una serie di discorsi perché fa parte di un linguaggio vecchio. Quindi questo, c'è tanto una questione di linguaggio e anche di convenienza di tutta una serie, o di ignoranza di tutta una serie di mondi politici che vogliono ancora che la situazione sia vista così, no? Mi viene da dire questo più che altro, poi ci sono tante situazioni in Europa molto diverse, ma tanto insomma l'Italia è l'Italia e dai meli cascano le mele, ecco. Federico, io ti ringrazio di questa chiacchierata e anche di queste ultime riflessioni, e chiaramente invito tutte e tutti a partecipare all'incontro, come dicevi tu, e dibattito, perché ricordo che ci sarà anche la possibilità di confrontarsi direttamente con voi. Questo venerdì 12 novembre al Teatro Celebrazioni per Non Chiamatemi Artista, e quindi ancora grazie, a presto. Grazie Adele, grazie Radio Fujiko. Tra l'altro l'incontro è gratis, peraltro, ricordo che ovviamente in un caso del genere è forse ancora più importante, dato il tema, quindi fiateci.